E così i miei giorni fortunati sono irrimediabilmente passati, senza che per dabbenaggine o pigrizia io ne abbia saputo cogliere le munifiche occasioni. Me li annunciava questi giorni fortunati un bigliettino della Gold Market, che immagino sia una filantropica istituzione avente per scopo la resurrezione dei depressi e per mezzi lingotti d'oro da buttare sullo sbilenco piatto della bilancia delle esistenze travagliate, come la mia per l'appunto. Mi invitavano a fare una capatina da loro alla Gold Market per prostrarmi innanzi all'ultima novità in fatto di misurazione del tempo. Avrei potuto infatti ammirare il primo e l'unico orologio che segna il countdown del terzo millennio. E soprattutto, profittando dei miei giorni fortunati, avrei potuto ivi ritirare il prezioso dono a me riservato dalla sorte benigna. Oggi è domenica 25, i giorni fortunati erano il 23 e il 24, non ci sono andato, ho perduto le mie chance. In realtà ne sono oltremodo lieto. Per non andarci avevo i miei, anzi, un paio di buoni motivi. Il primo di questi buoni motivi è costituito dall'imbarazzante presenza dell'orologio munito di countdown al terzo millennio. Io già ogni anno rimango devastato dall'orrore per le grandi masse televisive che ai comandi dei Pippi Baudi, delle Albe Parieti e dei Frizzi e Lazzi scandiscono con tensione degna di miglior causa attimi che li separerebbero da quel qualcosa di gioiosamente luminoso, di epocale, di traumaticamente bello, di epifania collettiva che sarebbe costituito dall'avvento della mezzanotte. Quella attesa da presentatori lucignoli prostituisce. E la vergogna è tanta anche per chi non ne partecipa e scuote mestamente il capo. Pur sempre di suoi figli, di poveri cari e di fratelli si tratta, e vederli tutti di corsa verso il paese dei balocchi non fa bene al cuore. Figuriamoci un mega conto alla rovescia come quello procurato dal portentoso orologio della Gold Market. Un incubo di idiozia verso il nulla di un momento, che volendo semplicemente disfare le moleste, traballanti convenzioni, potrebbe essere spostato a dopodomani o alla settimana scorsa, a piacere. L'ultimo sussulto produttivo dell'era industriale è ormai questa ansiosa e irrefrenabile costruzione di anniversari. Così come ci infliggono il centenario della Federazione Italiana Gioco Calcio, o quello del cinema, o quello dell'invenzione della fossa biologica per il trattamento dei liquami, magari questo no, o il cinquantenario del bikini, o il venticinquennale del visualizzatore a cristalli liquidi, o ancora perfino ci infliggono il ventennale di Radio Popolare, a maggior ragione ci infliggeranno pene severe per il fatidico 2000. Incuranti del fatto che all'arrivo saranno in pochi e malaticci, basta lasciar fare ai nostri pubblici amministratori, la volata più lunga del secolo è già cominciata. Beh, io non corro. Se sarò vivo e non sarò appeso ad una parete di qualche patria galera, sarò a casa mia, tapparelle abbassate, un buon libro in mano, camomilla fumante o quel che mi avranno venduto per camomilla, verso le 10:30 me ne vado a letto. E meno conti alla rovescia dovrò subire, meno lacrime verserò su di un'umanità che sguaiatamente gioca al proprio massacro. C'è un secondo motivo per cui mi sono ben guardato dall'andare a ritirare il dono prezioso riservatomi dalla Gold Market. I giorni fortunati erano due. Il processo inflazionistico è ormai tale che perfino la buona sorte ha perso il suo carattere di unicità irripetibile. come il postino, la fortuna ormai bussa due volte, meglio ancora dell'assemblea di condominio che solo apparentemente sembra possibile due volte, ma in realtà si concreta solo una volta, alla seconda convocazione, no? Qui sì, al primo richiamo di Dio sei occupato, non c'è problema, perché lui, paziente e comprensivo, ripassa. Inutile dire che il mio caso poi non era poi così cieco come tradizione vorrebbe. I miei due giorni fortunati, ma guarda un po', cadevano di venerdì e di sabato. Erano cioè giorni ad ampio spettro sociale, diciamo così. Potevo appartenere a quella classe di privilegiati che può andare ovunque, anche al Gold Market, anche nei giorni lavorativi, ed ecco il venerdì. E potevo invece soffrire sotto il giogo del lavoro, ed ecco dunque il sabato libero. Troppi calcoli da parte del donatore perché il beneficiato possa davvero essere tale. Ci sono casi in cui uno è il numero giusto e due è di troppo. Sono anche di troppo le fotografie sul Corriere della Sera di lunedì scorso. Esplode un autobus, Londra nel terrore. È dai tempi di Jack lo Squartatore che per i nostri giornali Londra e terrore si associano volentieri. A novembre il Corriere titolava Terrore da bistecca dilaga per Londra. Qui la didascalia dice che torna il terrore nel cuore di Londra. Si parla di morti e di feriti e quindi giustamente la notizia sta in prima pagina, con fotografia, e qui sta il punto. Questa fotografia ritrae un distinto signore che con una coperta sulle spalle stringe a sé la sua borsa. Dalla sua tempia sinistra scendono rivoli di sangue. È l'immagine dello sbigottimento e della tragedia che si è svolta intorno a lui. È affranto, è scampato, ha il cuore in tumulto, pazientemente attende il suo turno di cure. In generale non amo le fotografie dei giornali, a maggior ragione non le amo allorché si soffermano su fatti di sangue e di morte. Ma per una volta lasciamo pur correre, c'è qualcosa d'altro su cui invece non posso lasciar correre. Questa bomba è la seconda. Segue quella del 9 febbraio, sempre nella stessa Londra, sempre causa di morti e feriti. Anche in quella occasione il Corriere della Sera aveva pensato bene di illustrare l'accaduto con una fotografia. Con la stessa fotografia. Esattamente la stessa, lo stesso signore ferito, colto nella stessa posizione, con il medesimo sangue che sgocciola sul medesimo volto affranto. E a questo punto o si tratta di un signore molto sfortunato, nel senso che essendo londinese è lì capitato nel momento in cui esplodevano le due bombe tutte e due le volte a distanza di 10 giorni l'una dall'altra, o si deve ammettere che fra le funzioni ambite dalla stampa moderna l'informazione non va presa proprio alla lettera. Evidentemente il compito informativo della fotografia è del tutto fittizio. Si tratta invece di soddisfare l'esigenza di una rappresentazione simbolica adeguata all'evento di cui si riferisce. Per una bomba va bene un ferito, purché si veda bene che è ferito. Il simbolo deve essere fotogenico, chiaramente rappresentativo e privo di ambiguità. Il vecchio signore in questione aveva una bella fronte alta e il sangue dalla tempia sgorgava bene e disegnava un bel intrico di rivoli che conferivano l'opportuna drammaticità. Il fittizio e la ripetizione, nonché la morbosa latenza della carne martoriata, che qui soddisfano i palati del buon giornalismo, sono anche elementi costitutivi di un'altra forma di letteratura cosiddetta minore, la pornografia. Ma loro non lo sanno. O lo sanno?